Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Di fronte alle notizie delle ultime settimane è impossibile che il piccolo risparmiatore, almeno quello che ha un portafoglio nella maggioranza dei casi composto da obbligazioni del tesoro, comunque un portafoglio di investimento molto prudenziale, non sia preoccupato e alla ricerca di una soluzione che gli permetta di stare un po' tranquillo. La risposta alla ricerca di sicurezza e tranquillità può arrivare dalla scelta di strumenti finanziari diversi e che si possono considerare per alcuni aspetti più sicuri di altri. Dato però per assunto che le soluzioni miracolose non esistono, tantomeno nel mondo degli investimenti finanziari, se da una parte ci sono maggiori garanzie per alcuni prodotti di risparmio, appunto dall'altra parte ci sono senz'altro rendimenti meno convenienti e comunque nessuno può considerare al 100% anche i prodotti più tranquilli esenti da pericoli. Un motivo in più per conoscere a fondo questi prodotti e fare la scelta migliore consapevolmente quando si va appunto alla ricerca della sicurezza totale. Ieri abbiamo toccato il tema del conto di deposito, peraltro su alcune cose che abbiamo detto dobbiamo fare stamattina alcune precisazioni. Oggi vorremmo invece esplorare il panorama dei buoni fruttiferi postali, dei libretti di risparmio, dei pronti contro termine. Questi ultimi sono degli strumenti di liquidità a brevissimo termine che hanno già un minor grado di semplicità rispetto ai buoni fruttiferi e ai titoli di Stato. Comunque stamattina cercheremo di capirne qualcosa di più. Insieme ai nostri due interlocutori, Alessandro Pedone, consulente indipendente di Tecta Consulting e responsabile ADUC per la tutela del risparmio. Dottor Pedone, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. E saluto e ringrazio anche Marcello Ferrara, analista dell'ufficio studi di Consulti, che è un'altra società di consulenza indipendente. Dottor Ferrara, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Naturalmente, come sempre, microfoni aperti alle vostre chiamate. 800 24 00 24 è il numero verde appunto che vi permette di cominciare già a prenotare per le vostre riflessioni, oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Prima di raccontarvi la borsa, cosa vi devo precisare rispetto a ieri? Abbiamo parlato appunto delle remunerazioni offerte dai prodotti più recenti nel settore bancario per i conti di deposito, che sono una scelta che viene battuta molto da qualche tempo a questa parte da molti risparmiatori, perché effettivamente le remunerazioni che riconoscono sono molto attraenti. C'è però da ricordare che cominciano ad avere anche una composizione un po' complessa, non sono dei conti correnti, sono appunto strumenti di deposito che vengono vincolati spesso e volentieri appunto, e solo a condizione del vincolo la banca riconosce una determinata remunerazione che può essere appunto attraente. Molti di voi ci hanno chiesto chiarimenti relativamente alle tutele offerte da questi conti e al funzionamento su questi conti del fondo interbancario di tutela dei depositi, perché molti di voi ci hanno chiesto: se io ci deposito più di 100.000 euro e la banca fallisce, fino a quanto sono garantito? E allora noi avevamo indicato ieri, non mi ricordavo bene questa parte, che se un risparmiatore vuole essere completamente sicuro, appunto, può aprire due conti correnti nella stessa banca con un importo inferiore. In realtà la garanzia offerta dal fondo interbancario è per depositare, non per conto, pertanto la copertura, essendo per depositante, se si apre un conto cointestato c'è la garanzia dei 100.000 euro a testa di restituzione, ma se una persona ha due conti il limite è solo di 100.000 euro, per cui ci sembrava appunto corretto fare questa precisazione. Detto questo, andiamo a vedere invece la borsa. Prima di partire con i buoni fruttiferi postali o comunque con i prodotti di risparmio appunto più semplici e di rango leggermente superiore in termini di complessità ai conti correnti e ai conti di deposito, la borsa oggi è positiva. Non era partita così bene la giornata, poi le borse ci hanno ripensato, segno che hanno la sensazione, ma dovrebbe essere confermata questa decisione, che la Banca Centrale Europea manterrà i tassi invariati all'1,5%, ma probabilmente il presidente della BCE Trichet, in una delle sue ultime uscite pubbliche prima di lasciare il posto a Mario Draghi, probabilmente dovrà dire che questi tassi dovranno essere mantenuti a questi livelli ancora a lungo. Fino a qualche mese fa c'era la convinzione che ci sarebbe stato un nuovo aumento dei tassi entro la fine dell'anno, addirittura adesso il quadro previsionale è radicalmente cambiato, potremmo andare incontro anzi ad un taglio dei tassi, come anche auspica l'OCSE secondo le previsioni che ha fatto questa mattina, l'avete sentito nel giornale radio. Milano guadagna all'1,43%. C'è attesa anche per il discorso al congresso americano di Barack Obama, e i migliori titoli sono tutti bancari questa mattina: UbiBank più 4,42%, la Popolare di Milano più 3,79%. Questo è un titolo davvero che vive giornate sulle montagne russe, deve fare un aumento di capitale. Si pensava che Banca d'Italia desse lo stop per un rinvio a questa operazione, invece Banca d'Italia ha dato il via libera definitivo, e anzi potrebbe essere necessario un ammontare inferiore rispetto a quello inizialmente pronosticato. Pertanto su questa prospettiva il titolo ritorna a crescere. Intesa San Paolo recupera l'euro nominale, guadagna il 3,67%, Fondiaria più 3, Mediolanum più 3, Campari più 2,68%, Unicredit più 2,64%, Buzzi Unicem più 2,35%. In discesa di circa mezzo punto abbiamo invece Tenaris e Mediaset, sono gli unici titoli negativi in questo momento. A Milano sono ancora in corsa i titoli della Galassia Fiat, l'euro sul dollaro a 1,40,59 e ha ripreso a correre l'euro sul franco svizzero a 1,21,46, quindi è riuscita la mossa della Banca Nazionale Svizzera, appunto presa nei giorni scorsi, di fissare il floor, praticamente il pavimento per il franco svizzero sul dollaro a 1,20, anzi l'euro sul franco a 1,20. Direi che la borsa la possiamo lasciare al momento. Lo spread, il differenziale di rendimento fra BTP e Bund, è a 334 punti, quindi si sta gradualmente stemperando la tensione degli ultimi giorni. E allora, visto che c'è meno tensione, vediamo un po' i risparmiatori su quali strumenti di risparmio ritenuti iperprotettivi stanno scegliendo, si stanno orientando appunto da qualche settimana a questa parte. Con i tempi che corrono, è facile immaginare che molti risparmiatori siano alla ricerca della tattica migliore per giocare in difesa, pensando insomma a mettere al sicuro il proprio capitale piuttosto che ai ritorni dell'investimento. Una teoria che spiegherebbe la corsa all'acquisto dei cari vecchi buoni fruttiferi postali, ma anche l'attenzione crescente verso i libretti di risparmio e i pronti controtermine. Tutti strumenti, questi, che permettono di parcheggiare il proprio gruzzolo in un investimento considerato sicuro, con un rendimento pari almeno all'inflazione. Ma può davvero esistere un'attività finanziaria del tutto esente da pericoli? Le garanzie dei buoni fruttiferi postali, ad esempio, sono in definitiva le stesse dei BTP, poiché si tratta sempre di titoli garantiti dallo Stato. La differenza però c'è e sta soprattutto nella tranquillità dovuta alla minore esposizione alla volatilità dei mercati. Con la preoccupazione che cresce, in particolare intorno ai titoli del tesoro, che potrebbero far perdere denaro al piccolo investitore se venduti prima della scadenza, è infatti probabile che nelle prossime settimane partiranno dalle banche nuove proposte e offerte di prodotti che riconoscano il rimborso del denaro investito in qualsiasi momento. Rispondono alla stessa esigenza anche i pronti controtermine. A fronte di una cessione momentanea di titoli, la banca si impegna con il cliente al riacquisto dei titoli a una certa data e a un prezzo prefissato che incorpora un rendimento. Individuare uno strumento che permetta di conoscere in partenza il guadagno che si realizzerà dall'investimento può essere insomma un buon modo per iniziare a dormire sonni un po' più tranquilli, senza dimenticare che anche la sicurezza ha il suo prezzo e che sicuramente, con il capitale garantito, non si potrà ambire a guadagni sostanziosi. In un momento come questo, però, non stupisce di certo che l'investitore medio sia poco interessato agli azzardi. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Cosa scrive il primo ascoltatore? Mi è difficile capire come calcolare gli interessi sui buoni postali indicizzati all'inflazione. È possibile semplificare? Adesso lo chiederemo ai nostri interlocutori, perché sì, effettivamente, peraltro, noi li stiamo un po', così, passatemi il termine, sponsorizzando come prodotti estremamente semplici. Io do del denaro, investo del denaro, deposito del denaro, quindi per un determinato arco temporale la garanzia è totale su questi prodotti, però i rendimenti sono estremamente bassi. Allora, per remunerare un po' di più, da qualche anno a questa parte le poste hanno lanciato sul mercato prodotti un po' più sofisticati, quindi che hanno un minor grado di semplicità. Sono i buoni fruttiferi postali, per esempio, indicizzati all'inflazione, ma ci sono anche gli indicizzati a scadenza, che che legano il loro rendimento anche all'andamento della borsa, e quindi effettivamente anche qui un grado di sofisticazione è arrivato. Alessandro Pedone, inizio subito con lei. In ogni caso sono ancora questi, soprattutto dai profili più prudenti di investitori, gli strumenti di investimento maggiormente scelti. Qual è la sua sensazione? Sì, sicuramente anche dal servitorio privilegiato che ho in associazione, in ADUC, i profili che sono estremamente conservativi, il bono forestale fruttifero ha appunto questa caratteristica interessante di avere sì rendimenti molto molto risicati, ma avere una predeterminazione di quello che può essere il capitale nel caso in cui io ritiri il capitale investito in un momento precedente alla scadenza, quindi non ho un mercato, cioè non prenderò il prezzo di mercato di allora, ma prendo un capitale comprensivo degli interessi predeterminato ed è indicato nel foglio informativo stesso del bono postale fruttifero, quindi non sono soggetto alle oscillazioni di mercato, e questo perché ha un profilo estremamente conservativo è sicuramente l'elemento più interessante dei buoni postali fruttiferi. Ecco, ovviamente, sì. Come ricordava benissimo la scheda, non stiamo in nessun caso parlando di protezione contro un eventuale default dell'Italia, che è un'ipotesi remotissima, perché comunque l'emittente è lo stesso. È sempre lo Stato, la Cassa Depositi e Prestiti. Stato, sì. Però stiamo parlando, quindi quando parliamo di strumenti più sicuri, stiamo parlando di sicurezza dal punto di vista delle oscillazioni dei mercati finanziari. E infatti, perché mentre prima potevano avere da questo punto di vista lo stesso grado di sicurezza di BOT e PTP, abbiamo imparato dalla crisi recente che invece anche i titoli di Stato, che potevano essere considerati fino a qualche tempo fa la mamma di tutti i risparmiatori, possono subire delle oscillazioni molto forti, e questo lo abbiamo visto appunto soprattutto nel mese di agosto, e di conseguenza ecco, quantomeno questa è la differenza più importante che possiamo indicare tra i titoli di Stato e i buoni fruttiferi. Peraltro, visto che guardando proprio alla tipologia degli ordinari, ne abbiamo due grandi macro categorie, quelli a 20 anni e quelli a 18 mesi. Scadenze intermedie non ce ne sono, Pedone? Sì, in realtà anche per quelli lunghi, come dicevamo prima, sono ritirabili tranquillamente a ogni bimestre, quindi sono tranquillamente ritirabili in ogni momento, soltanto che il rendimento che si percepisce è crescente più tempo li lasciamo, quindi quelli a 20 anni non significa che dobbiamo tenerli per 20 anni. Ho capito. Allora, tra l'altro credo già di dover andare a fare la prima pausa, però magari un piccolo cenno con Marcello Ferrara, analista di Consultic, lo posso fare. Oggi come oggi, che tipo di rendimento riconoscono per esempio le scadenze a 18 mesi, Ferrara? BTP, buoni fruttiferi, sì. Circa i buoni fruttiferi a 18 mesi ne esistono due diversi tipi, i classici buoni fruttali fruttiferi a 18 mesi più quelli che vengono definiti 18 mesi plus, quindi ci sono due differenti tipologie di buoni fruttiferi postali. Sui 18 mesi, quelli classici, c'è la possibilità di ricevere il capitale più gli interessi ogni semestre, quindi significa che durante il primo arco, durante il primo semestre si ha un rendimento effettivo, in questo caso intorno all'1,5%. Che viene ricapitalizzato oppure viene, che può essere liquidato? Liquidato. L'importante è che siano trascorsi almeno 6 mesi, altrimenti se si ritira il capitale in via anticipata rispetto ai 6 mesi non si percepisce nessun interesse, fermo restando che il capitale viene comunque riconosciuto anche in qualsiasi caso. Via via che passa il tempo, quindi con il secondo e il terzo semestre, il rendimento effettivo va a aumentare fino ad arrivare, se lo si mantiene per i 18 mesi, attualmente al 2,21. Quelli plus invece sono leggermente diversi, in quanto il vincolo temporale in questo caso è di 18 mesi, quindi in caso vengano rimborsati o si chieda la restituzione anticipatamente non viene riconosciuto nessun interesse, però in questo caso il rendimento passa dal 2,21 a un 2,50 lordo. Benissimo, ci fermiamo per meteo e pubblicità e poi ritorniamo insieme ad Alessandro Pedone e Marcello Ferrara sui buoni fruttiferi. Oggi Salvadanaio ritorna sulla ricerca di sicurezza da parte dei risparmiatori, quindi caccia ai prodotti anche magari poco remunerativi, ma che come ci danno la garanzia di conservare quantomeno il nostro capitale in un determinato arco di tempo. Ieri abbiamo affrontato il terreno dei conti di deposito, oggi invece andiamo alla semplicità dei buoni fruttiferi postali, dei pronti controtermine. Non c'è molto da dire sui libretti di risparmio, che sono molto semplici appunto. Allora, sui buoni fruttiferi postali eravamo rimasti alla spiegazione ai tassi di rendimento riconosciuti dalle tipologie a 18 mesi, classici e versione plus, come ci ha ben spiegato l'analista Marcello Ferrara. Volevo ritornare proprio così, spiegando un po' qual è il funzionamento di questi strumenti. Alessandro Pedone, ritorno da lei. Abbiamo già detto che sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi come tali garantiti dallo Stato italiano. Leggo però che, per esempio, per gli ordinari ventennali attualmente c'è in corso di emissione la serie B80 per i buoni fruttiferi indicizzati all'inflazione, attualmente in corso di emissione la serie J15. Che cosa vuol dire? Ogni quanto la Cassa Depositi e Prestiti lancia sul mercato questi prodotti? Ma diciamo che la struttura è sempre la stessa, quindi diciamo, a parte quando sono state fatte queste innovazioni sui buoni postali indicizzati all'inflazione, poi quelli invece indicizzati con l'andamento di alcune azioni, salvo diciamo queste proprio le nuove categorie che raramente vengono emesse, poi la struttura è sempre la stessa, ma periodicamente, diciamo tendenzialmente ogni mese, mese e mezzo, dipende dalle esigenze della Cassa Depositi e Prestiti stessa, viene emessa una nuova serie che cambia il codice perché cambia le condizioni, cioè i coefficienti di rimborso. Come abbiamo detto prima, la caratteristica centrale di questo strumento è che noi sappiamo ad una determinata data quanto riprenderemo, a prescindere dalle oscillazioni dei mercati, dalla variazione dei tassi di interesse, da qualunque cosa, lo sappiamo perché questo dato, questo numero sta scritto proprio nel prospetto informativo, nel foglio informativo, e ad ogni serie corrisponde appunto i coefficienti di rimborso. È molto, può sembrare complicato, ma in realtà è piuttosto semplice, soprattutto per quelli ordinari, perché sostanzialmente si moltiplica per ogni euro che noi abbiamo versato in questo strumento, si moltiplica per questo coefficiente e viene il capitale complessivo che ci viene rimborsato. Nel foglio informativo sta scritto sia quello lordo, perché poi come tutti gli strumenti finanziari anche questi sono soggetti alla tassazione delle rendite finanziarie, e sia quello netto. E quindi moltiplicando quanto noi si è dato per questo coefficiente, che è un 1,02, significa che è il 2%, eccetera eccetera, moltiplicando quello che abbiamo versato per questo coefficiente si sa esattamente la scadenza. Quindi, per rispondere in sintesi, vengono emesse queste serie grosso modo a cadenza mensile in base alle esigenze della Cassa Depositi e Prestiti, e identificano chiaramente i soldi che ci verranno rimborsati per ciascuna scadenza, cioè entro quelle fasce, quindi entro 2 mesi, entro 4 mesi, entro 6 mesi, a seconda di quello che sta scritto nel foglio informativo. Tra l'altro, soffermandoci per un attimo sulla questione del trattamento fiscale, dobbiamo ricordare che questi prodotti di investimento hanno il trattamento più favorevole perché l'aliquota è al 12,5%, come per BOT e CCT, e anche con la riforma della tassazione sulle rendite finanziarie appunto questo trattamento resterà così incentivante. Pedone, mi sembra, no? Che questi non verranno toccati. Allora, 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Direi di cominciare a coinvolgere i nostri ascoltatori, poi risponderemo anche all'ascoltatore che ci sta mandando tanti messaggi perché vuole capire appunto, come vi dicevo all'inizio, come calcolare gli interessi sui buoni postali indicizzati all'inflazione. Prima però cominciamo con la nostra ascoltatrice dalla Sicilia, Letizia da Catania. Buongiorno, buona giornata. Buongiorno, io vorrei un'informazione. Mio nonno, nei primi anni 80, più o meno fino all'85-86, mi comprò regolarmente dei buoni fruttiferi. Sì. Che io ancora ho e conservo ovviamente. Ora mi è sorto il dubbio, vorrei sapere se hanno una scadenza, perché in effetti sul retro, come diceva il vostro esperto, c'è scritto quanto valgono e valgono adesso moltissimo perché nel tempo aumenta. Però mi chiedevo, c'è una scadenza oltre i 30 anni, cosa succede se io non li incasso? Prima domanda. E seconda domanda, se c'è il rischio che a un certo punto, non so, mi vietino di perdano di valore, per esempio, e se conviene eventualmente incassarli adesso. Grazie Letizia. Allora, ammettendo così che, vabbè, tra gli inizi degli anni 80, abbiamo capito, a metà degli anni 80, questo nonno così solerte, così affezionato appunto ai nipoti, aveva provveduto già a mettere da parte su questi strumenti di risparmio qualcosa per i suoi, per i propri nipoti, appunto. Pedone, continuo con lei, perché poi con Ferrara vorrei andare al tema del buono fruttifero indicizzato all'inflazione. Allora, 85-95-2005, ammettendo che sia stato l'ordinario a 20 anni che andava a scadenza, è teoricamente già scaduto. Sì, allora deve assolutamente andare in posta, e se ovviamente il titolo è scaduto lo deve richiamare. Esiste la prescrizione, quindi è bene che si informi esattamente. Bisogna capire quale sia la scadenza, perché nel corso degli anni sono state emesse varie tipologie di buoni postali. Nell'80, francamente, in questo momento non ho idea di quali possono essere le scadenze. Eventualmente l'ascoltatrice, se vuole un'informazione, possiamo farla scrivere, può inviare un'email a lei, poi me la rigirate e vi do le informazioni specifiche, perché ovviamente mi piace, come dire, dare delle informazioni quando la contezza. Sicuramente la prima cosa che deve fare è andare in posta e informarsi sulla scadenza esatta e sulla tipologia di titoli. Dico anche questa brevissima cosa: c'è stato nel tempo una parentesi abbastanza spiacevole sui buoni postali fruttiferi, perché sono stati modificati da una legge gli interessi su alcune serie che erano già emesse. Abbiamo detto che appunto c'è questa caratteristica di sapere esattamente qual è l'interesse, eccetera, però in una breve parentesi è stata fatta una legge retroattiva, si parla di molti anni fa, e quindi è una cosa che non interessa adesso, però potrebbe interessare la specifica ascoltatrice, perché c'è stata fatta una legge con delle modifiche degli interessi in corso di alcune serie dei buoni postali, perché stavano riconoscendo dei livelli elevati. La cosa, è un po' complessa la cosa, quindi diciamo una risposta secca. Per quanto riguarda convenga o non convenga, se fossero ancora in corso, ma ne dubito nettamente, chi ha ancora serie molto molto emesse molto tempo fa, è bene che se le tenga strette, insomma. Tra l'altro non mi ricordo neanche se i buoni fruttiferi postali erano coinvolti nell'ambito di tutta quella disciplina riguardante i rapporti dormienti, Pedone. Sì. Allora, Marcello Ferrara, non so se le vuole anche intervenire sul caso che abbiamo appena ascoltato, che magari ha qualche informazione in più rispetto appunto a questa possibilità che possano non essere più essere riscossi questi buoni fruttiferi. Allora, assolutamente, come diceva anche Pedone, i rendimenti vengono pagati nel corso dei primi 20 anni, dopodiché viene riconosciuto degli interessi aggiuntivi dal 20° al 30° anno, pagati bimestralmente, mi risulta, però l'entità di questi interessi è molto modesta, per cui vero è che tipicamente quei buoni ormai hanno dei rendimenti, anche se sono modesti rispetto a quelli che pagavano durante il ventennio iniziale, indicato, relativamente bassi, sono comunque rendimenti che al giorno d'oggi sono abbastanza interessanti. Decorsi i 30 anni però bisogna necessariamente ritirarli, altrimenti vanno in prescrizione e quindi c'è il rischio di perdere anche tutto il capitale. Allora. Sì. Quindi ecco, un consiglio che posso dare ulteriormente all'ascoltatrice riguarda il sito internet di Poste, sul quale è possibile andare a calcolare qual è il controvalore del buono della fattispecie. Quindi basta impostare sul sito internet di Poste qual è la data in cui è stato stipulato il apparterrà anche ad una quella serie di buoni che ha l'ascoltatrice, avranno anche un codice di serie, no? Esattamente sì, però è sufficiente impostare la data in cui è stato stipulato e automaticamente il software rileva qual è la serie durante la quale la data è stato emesso, quindi sostanzialmente rileva a partire dalla data di emissione qual è la serie corrispondente a quella che ha in mano la cliente. Ottimo, grazie per il suggerimento. Sentirei anche la domanda di Riccardo da Bergamo, per poi andare ai benedetti BTP, buoni fruttiferi indicizzati all'inflazione. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, intanto volevo ricordare che io ho fatto i primi risparmi nell'82 in buoni postali, e secondo i calcoli fatti dovrebbe essere valutati circa 15 volte rispetto a, anche per rispondere un po' alle indicazioni. Ma a parte questo, volevo chiedere come mai nei boni postali non si sottolinea abbastanza come, non avendo costi di gestione e non avendo tempi morti nella gestione, non dedicarci tempo e così via, di fatto anche quelli attuali che rendono poco sono molto interessanti in quanto sono un'eccellente alternativa ai fondi pensione e di fatto hanno una resa che è superiore ai, ai titoli di Stato, in quanto se, se dei bot togliamo le commissioni bancarie, il tempo che devono dedicarci, questo è il tempo, il tempo è denaro e i bot postali hanno questo pregio. E infatti Riccardo, adesso non me lo ricordo neanche se l'abbiamo detto nella scheda, effettivamente questo è un aspetto indicato, non straenfatizzato effettivamente, però proprio per il fatto che hanno costi di gestione estremamente risicati, anche per questo possono permettersi di risicare ulteriormente i rendimenti. Detto questo, adesso c'è anche questo parallelo che lei ha fatto interessante sull'utilizzo di questo strumento come anche costruzione della pensione di scorta, siccome so che Alessandro Pedone è molto appassionato anche a questo argomento, sentiamoci adesso i suggerimenti per chi è in viaggio, poi vado a lui per un commento anche sulle riflessioni dell'ascoltatore di Bergamo. Stanno arrivando tante domande ancora anche sui pronti controtermine che alla fine non riesco neanche ad affrontare oggi, quindi magari facciamo così, terminiamo con i buoni fruttiferi postali al pronto controtermine, dedicheremo una trasmissione apposita magari nelle prossime giornate perché altrimenti qui generiamo tanta confusione. Sì, è vero, molti ascoltatori segnalano anche che ci sono i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori, magari se riusciamo diciamo due parole anche su questi. Andrei al commento dell'ascoltatore di Bergamo, Alessandro Pedone, che addirittura lui ritiene che un buono fruttifero postale possa essere un ottimo strumento anche per il bassissimo costo di gestione quasi nullo che ha, tassazione appunto assolutamente incentivante, come uno strumento per potersi costruire la, come dire, pensione di scorta. Non hanno però il contributo del datore di lavoro, per esempio. Sì, appunto, allora diciamo è verissimo l'aspetto dei costi, in maniera particolare per chi ha risparmi abbastanza contenuti, diciamo di poche migliaia di euro, l'elemento dei costi incide veramente moltissimo, quindi sicuramente il buono postale fruttifero è importante. Peraltro chi ha risparmi abbastanza di modesti di queste dimensioni è fondamentale che non abbia nessuna possibilità di perdita, perché normalmente costituisce, come dire, la liquidità di primo livello, quindi deve essere disinvestibile senza nessun rischio legato alle oscillazioni dei mercati finanziari, quindi sono un ottimo strumento di questo tipo. Per quanto riguarda la costruzione della pensione, per chi ha un profilo estremamente conservativo può avere un senso. Oggi come oggi, con i rendimenti che ci sono adesso, soprattutto rispetto tra l'altro ai titoli di Stato acquistabili in questo momento, non mi sento di dire che sia una strategia estremamente premiante nel lungo termine, tipico di un investimento pensionistico. Fra l'altro, appunto, purtroppo si perde anche il contributo del datore di lavoro, quindi, come dire, una strategia integrativa per chi ha già una strategia pensionistica definita con altri strumenti finanziari e in più vuole costruire questo zoccolo di assoluta certezza dalle oscillazioni, può avere un senso, ma come unica strategia non mi sento di sposarla. Brevissimamente invece volevo dire, visto che l'hai accennato, la cosa dei minori è estremamente interessante perché molto spesso le nonne ci tengono ad avere un investimento intestato ad un minore. Ecco, i buoni postali e i libretti postali sono uno delle pochi strumenti che possono effettivamente essere intestati ai minori con rendimenti un pochino più premianti anche rispetto ai buoni ordinari. Tra l'altro sono intestabili ai minori dai 0 ai 16 anni e mezzo, restituiscono sempre il 100% del capitale investito e gli interessi che maturano fino al compimento del 18° anno di età. Anche in questo caso poi sono flessibili perché possono essere rimborsati in anticipo, ma in genere le nonne accantonano questo risparmio appunto proprio per magari così costruire qualcosa che possa essere riconosciuto come un regalo al 18° anno di età appunto del nipote, per fargli magari pagare l'università o addirittura in tanti casi si possono anche conservare per un più lungo periodo di tempo, avviare anche un'attività professionale, quindi le finalità effettivamente sono molte, ma soprattutto sono strumenti semplici per la nonna oltre che per il nipote. Il buono fruttifero indicizzato all'inflazione, allora ci risponde Ferrara, sono degli strumenti che riconoscono un rendimento reale fisso. In aggiunta recupero anche della perdita del potere d'acquisto. Credo di capire, se non leggo male, che hanno una durata non superiore a 10 anni, anche se questi possono pure essere rimborsati in anticipo. Esattamente, anche in questo caso possono essere rimborsati in anticipo, nei primi 18 mesi però non riconoscono nessun tipo di interesse nel caso vengano prelevati entro tale data. Hanno una durata decennale e la serie attualmente in collocamento offre un rendimento reale dello 0,6%, quindi un rendimento relativamente modesto se lo confrontiamo a quello di un titolo di Stato. Anche certo. Se ovviamente come segnalato da Pedone non abbiamo le oscillazioni di prezzo che sono una variabile estremamente rilevante per quello che riguarda gli investimenti. Ecco, ma come si relaziona l'inflazione? Oggi abbiamo un tasso tra il 2,7 e il 2,8%, il rendimento reale garantito in questo momento dall'ultima serie in collocamento lei ci diceva lo 0,6%, quindi che cosa vuol dire poi essere agganciato all'inflazione? Allora, significa che nel mese supponiamo di acquistare oggi un buono fruttifero indicizzato. Andremo a prendere il coefficiente o meglio l'indice FOI, il valore dell'indice FOI tre mesi prima, quindi in questo caso andremo a prendere l'indice FOI del mese di giugno nel momento in cui chiederemo rimborso andremo a vedere quale sarà il valore dell'indice FOI in quel momento, faremo desumeremo qual è stata l'inflazione nel momento in cui si va a chiedere il rimborso e questo coefficiente che si calcola in questo modo con il rapporto tra il valore del fattore dell'indice alla data di rimborso rispetto a quello nel momento in cui viene fatta la stipula, questo coefficiente viene moltiplicato per il nominale e in più per questo 0,6% reale su base annua in regime di capitalizzazione composta. Insomma, sì, semplici, ma bisogna metterci anche la testa un attimo quando ci facciamo spiegare come si calcolano i rendimenti, perché non è che poi, come dire, la procedura, la dinamica è così immediata. Sentiamo Delio da Lecco. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signora Deborah Rosciani, la ringrazio per avermi richiamato. Ci dica tutto. Allora, io volevo chiedere ai suoi esperti riguardo i buoni indicizzati a 7 anni all'italiano. Sì, ma il bono fruttifero postale, Delio? Sì, il bono fruttifero postale e poi quello a 5 anni legato all'Eurostock. Perché io entro magari per vedere, diciamo, nella cassa depositi e prestiti, così per vedere che valutazione danno cosa, ma non si riesce mai a vedere niente di questo. Volevo capire com'era. Allora, dunque, mi soffermo, visto che il tempo sta volando, su quest'ultimo prodotto che ha indicato, perché un po' sulla dinamica del buono fruttifero indicizzato all'inflazione abbiamo già ci siamo già andati. Andrei sul buono indicizzato a scadenza, che è quello a 5 anni, appunto, è quello che calcola il proprio rendimento sulla base dell'andamento dell'Eurostox 50, che è il paniere dei principali titoli appunto quotati sulle borse europee. E allora già qua parliamo di un grado di sofisticazione un po' più alto. Alessandro Pedone, a chi ha indicato secondo lei un prodotto di questo tipo che comunque subisce sicuramente delle oscillazioni, ma riesce comunque a riconoscere la restituzione del capitale a scadenza nonostante come sottostante ci sia la borsa? Allora, risposta secca, anche come dire un po' polemica, a nessuno, non è indicata a nessuno, perché se uno prende un buono postale fruttifero lo prende per delle esigenze di sicurezza, di certezza, di predeterminazione che abbiamo detto prima. In realtà questi strumenti sono stati creati quando le obbligazioni strutturate facevano, come dire, la coda quasi comunque agli sportelli bancari, perché c'è la concorrenza di questi strumenti che già di per sé sono inadatti anche quando venduti dalle banche, quindi sulla scia di questa cosa sono stati introdotti anche dalle poste questi buoni postali fruttiferi. La parte consistente del rendimento, perché hanno un tasso nominale annuo garantito estremamente contenuto, poi c'è una parte, diciamo, chiamiamolo fra virgolette, di premio legato all'andamento dell'indice azionario sottostante. Questo tipo di strumenti io mi sento di sconsigliarli caldamente, perché appunto chi va a cercare il buono postale fruttifero lo fa per un un'esigenza di forte predeterminazione di quello che sarà il capitale rimborsato. Se uno invece desidera mettere una componente di variabile finanziaria legata all'andamento azionario, che sia, sicuramente se si orienta verso gli strumenti più direttamente finanziari, come dire, incertezza per incertezza, legandosi comunque ai mercati finanziari, è bene che lo faccia direttamente con tutta la consapevolezza del caso, eccetera. Per quanto riguarda l'ascoltatore che cercava il rimborso di questa cosa, come suggeriva prima Ferrari, se va sul sito delle Poste inserisce i dati relativi al proprio buono, salvo errori, anche io fino adesso ho sempre visto che viene data l'indicazione puntuale del valore di rimborso in questo momento. Allora, tra l'altro, per chi volesse individuare subito questi prodotti che hanno un grado di rischio un po' più alto rispetto al più semplice, all'ordinario buono fruttifero postale, Poste Italiane li chiama BFP Premia, per cui si sa, insomma, che questi sono i buoni fruttiferi con sottostante l'indice azionario Eurostoxx 50. Non so se riesco a far intervenire qualcun altro, non credo, magari faccio io la domanda che avrebbe voluto fare Giovanni da Ragusa, ma credo di averlo già detto all'inizio: i buoni fruttiferi postali corrono il rischio di diventare dormienti? Ferrara, me lo conferma? Nel senso che anche in questo caso decorsi per gli ordinari, quelli che sono i 20 anni, vanno ritirati, altrimenti si rischia effettivamente di che vadano cadano in prescrizione. Benissimo, io vi ringrazio per essere stati con noi, per tutte le domande che ci sono arrivate, e sono tante che non abbiamo potuto esaudire appunto in termini di risposta. Scriveteci a salvadanaio@radio24.it, perché Marcello Ferrari e Alessandro Pedone sono sicura che mi daranno una mano a potervi appunto dare delle risposte un po' più dettagliate, perché poi peraltro ognuno di voi ovviamente ci presenta il suo caso specifico, si riferisce ad una serie specifica di buoni. Tra l'altro c'è Gianni da Venezia che ci dice: un buono fruttifero postale dell'83 incassato esattamente la metà di quanto indicato sul retro, ci piacerebbe proprio vederlo. Gianni ci scriva. Grazie a tutti, a domani.